Salva Danaio di Deborah Rosciani. Che io avrebbi, che tu avrebbi, che colui avrebbi, che noi avrebbimo, che voi avrebbimo, che coloro avrebbino o avrebbessero. Silenzio, silenzio. Stoppani, vuoi forse prenderti gioco di me? Io mi posso cecamme, signor Preside. Ma allora come hai fatto ad avere una pagella così? Eppure qui c'è proprio il tuo nome, o no? Come no? Un momento. Allora, chissà se qualcuno di voi ha mai provato a falsificare la pagella come Gian Burrasca. In questa versione interpretato da Alvaro Vitali, era una versione datata 1982, il film è diretto da Pierfrancesco Pingitore. Un po' di cinematografia per introdurre anche oggi il tema del giorno. Di certo, se Gian Burrasca lo aveva fatto, per quello che riguarda i proprietari di immobili, non sarà più possibile truccare la pagella di un edificio, quella pagella che ne attesta il grado di efficienza energetica, con una gamma di voti che va dall'A per i primi della classe alla G. L'ACE, l'attestato di certificazione energetica, è ormai obbligatorio per tutti se si vuole vendere casa o usufruire di un bonus per i lavori di miglioramento e di miglioramento appunto dell'efficienza energetica. Non c'è autocertificazione che tenga. Un professionista, il certificatore, è tenuto a svolgere questo esame e molti naturalmente storcono il naso di fronte a questa circostanza. Giacomo, un ascoltatore su Facebook, ci ha scritto negli ultimi giorni: è un altro modo per far tirare fuori i soldi a chi deve vendere, se ci riesce. E se per caso la valutazione energetica è bassa, che cosa succede? Immagino che si debba calare il prezzo di vendita. E poi questo certificatore, come lo si sceglie, quanto ci costa? E allora parliamo di questo ed altro oggi a Salva Danaio, in corrispondenza come sempre con l'uscita di una guida delle Sole 24 Ore. Ciao Cristiano Dell'Oste, bentornato. Buongiorno. E bentornata anche all'ingegner Valeria Erba, presidente di ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Bentornata anche a lei. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande su questo argomento. Avete in programma di vendere casa o di fare lavori per il miglioramento energetico? Avete già provveduto alla certificazione energetica? Raccontatecelo, scriveteci intanto in quale professionista vi siete imbattuti, quanto vi è costato, anche e soprattutto se sapete di che cosa si tratta. Se non volete chiamare, avete anche l'opportunità di scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Brutta giornata per i mercati europei, tutti in calo, soprattutto Milano sta perdendo l'1,15%. Su Milano pesano naturalmente ancora le incertezze politiche, chissà per quanto ancora ce le porteremo dietro. Anche venerdì hanno chiuso deboli i listini europei e oltre al clima di incertezza politica, Milano sta scontando anche se gli operatori quantificano in poca cosa questa penalizzazione, sta scontando l'introduzione della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, tema del quale abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Forse sarà anche il caso di ritornarci, se in molti ancora non hanno capito che sulle compravendite appunto azionarie pesa adesso anche questa nuova aliquota. Vediamo un po' i peggiori titoli di Milano, quelli che stanno trascinando a ribasso il listino. Mediaset -4,87%, il titolo peraltro aveva corso molto da quando Silvio Berlusconi a dicembre aveva detto che sarebbe rientrato nei giochi politici, e poi naturalmente adesso con tutta la nuova incertezza che si è determinata il titolo sta riprendendo un po' di fiato e naturalmente sconta molte prese di profitto. Mediobanca -4, Monte dei Paschi -3,35, il titolo finisce sotto i 20 centesimi di euro. Mediolanum -3,34, Intesa San Paolo -3. Chi va bene oggi? Salvatore Ferragamo, neanche a dirlo, +2,23%, il titolo è a 22 euro. Diassorin +2, Autogrill +1,56%. Oggi ricordiamo che anche l'Asia è andata piuttosto male, con l'unica eccezione di Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,4%, mentre Shanghai -3,65, l'Hanseng di Hong Kong -1,50, quindi un quadro piuttosto eterogeneo su base internazionale. Vedremo oggi come aprirà Wall Street, visto che il mercato americano guarda invece al cosiddetto sequester, l'insieme dei tagli automatici alla spesa pubblica americana dopo il mancato accordo in Congresso. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, riparliamo parliamo di casa e della certificazione energetica. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non basta che sia carina, colorata e accogliente. Per essere mostrata ad un possibile compratore, una casa deve anche essere in regola con i documenti. L'ACE, attestato di certificazione energetica, è obbligatorio per chi vuole vendere la propria abitazione. Descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, classificandolo con un voto che sintetizza le sue prestazioni, posizionandolo in una scala da A a G. Questa pagella fornisce un'informazione importante sul consumo e sull'efficienza energetica e può quindi giocare un ruolo decisivo nelle valutazioni sul prezzo della casa, aumentandone o diminuendone il valore. La penna rossa è in mano ad un certificatore, chiamato a visionare tutte le parti riscaldate della casa e la centrale termica, prendere misure, analizzare le caratteristiche dei muri, delle finestre, del tetto e del pavimento, così come quelle degli impianti di riscaldamento, idrosanitario, di ventilazione. Si terrà conto anche dell'eventuale presenza di fonti rinnovabili. Per questa figura di esaminatore sono stati previsti requisiti specifici. Oltre a una laurea, 12 quelle individuate come abilitanti, dovrà garantire imparzialità e indipendenza rispetto al committente. Alcuni proprietari storceranno il naso di fronte ad una spesa che si aggiunge, la retribuzione di questo professionista. Se si vuole vendere una casa, però, o usufruire dei bonus fiscali per i lavori di miglioramento energetico, non c'è scelta. Dal 28 dicembre, inoltre, non è più valida l'autocertificazione che fino allo scorso anno, a patto di accontentarsi della fascia più bassa, la G, permetteva di essere esonerati da questa procedura. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta sul tema della certificazione energetica della casa, un tema di grande attualità e ormai sicuramente molti sanno di che cosa si tratta, non tutti, però non tutti sono al corrente di come procedere per ottenerla. Cristiano Dell'Oste, la guida di oggi è la guida nella solita modalità con gli esperti a disposizione dei lettori, non in questo caso. No, oggi non abbiamo il forum online, abbiamo però, per chi vuole poi approfondire, una guida digitale che si affianca a quella cartacea che si trova all'indirizzo ilsole24ore.com/, cioè la solita barra inclinata, guide più, scritto però senza l'accento sulla U in questo caso, perché sai che internet non prende gli accenti. No, infatti. E qui appunto c'è una guida fatta dalle colleghe della redazione di Roma che si occupano proprio delle guide più, che spiega passo a passo non soltanto come funziona la certificazione ma anche come si diventa certificatore, perché lo sentivamo già nella scheda, questa è una degli aspetti complessi, ma è anche un'opportunità professionale per un po' di tecnici che magari in una fase in cui le costruzioni e l'edilizia non tirano molto hanno opportunità di lavoro anche sul fronte della certificazione. Ecco, magari sì, hanno queste opportunità di lavoro i professionisti, però qualcuno dice anche se continuiamo a far gravare sulla casa tutti questi adempimenti, qua il mercato immobiliare rallenterà sempre meno. Adesso io non so, lo faremo un punto della situazione su quanto costi effettivamente presentare un certificato di certificazione energetica, un po' cacofonica la frase, però voglio dire, non credo che sia questa una voce che può incidere più di tanto, Cristiano. Diciamo che siamo nell'ordine delle centinaia di euro, alcune centinaia di euro, poi i prezzi variano molto, ma varia anche molto anche la qualità con cui viene fatta l'operazione. Diciamo quella che è la scommessa che c'è dietro la certificazione, perché sennò sembra che il nostro legislatore si diverta a creare nuovi balzelli. In realtà la certificazione energetica, che è stata diciamo introdotta dal 1 luglio del 2009 per le abitazioni, per le compravendite di abitazioni, e dal 1 gennaio del 2012 per gli annunci immobiliari di vendita, è un obbligo che dovrebbe servire a dire sostanzialmente che ogni immobile immesso sul mercato ha una misura precisa di quanto consuma dal punto di vista energetico per essere sostanzialmente riscaldato, e quindi gli immobili che hanno dei consumi più bassi e quindi dei costi di esercizio inferiori dovrebbero anche avere un prezzo più alto, perché consentono a chi li compra di risparmiare. Poi qual è il problema? Il problema è che da un lato fino alla fine di dicembre questa scappatoia dell'autocertificazione in classe G, che peraltro non era possibile in tutta Italia perché alcune regioni l'avevano vietata, tipo Piemonte e Lombardia, ma nel centro-sud era largamente utilizzata, questa scappatoia della certificazione in classe G evitava di fatto di dare un voto alla casa e quindi questo già creava un problema. E poi un altro problema è quello più in generale del fatto che moltissimi immobili in Italia si collocano nelle fasce medio-basse, quindi se non sono proprio in classe G, anche certificati per davvero, si scopre poi magari che sono in F, in D o in E, e allora questo fa sì che ci sia poca differenziazione, perché pochi sono gli immobili di alta qualità da un punto di vista energetico. Questo bisogna dirlo. Infatti, bisogna credo dirlo. Che l'ingegnere Erba si trovi d'accordo, no, con questo assunto, con questa così considerazione fatta dal nostro Cristiano. Qual è la qualità energetica degli immobili italiani? Allora, so che lei non ha chiaramente una mappatura completa, però precisa, è un'idea abbastanza precisa. Un dato significativo è che il 74% degli edifici in Italia sono stati costruiti prima della prima legge sull'efficienza energetica, quindi prima del 77, della 373. Quindi già tutti questi sicuramente non sono stati costruiti pensando all'efficienza energetica, e sono 74%, quindi già questo è un dato. Dalla 373 alla legge 91, legge 10 del 91, anche lì c'erano dei requisiti molto bassi, quindi comunque le costruzioni davano un occhio all'efficienza energetica, ma diciamo più relativo. Dal 91 diciamo al 2005, quando poi è uscito il 192, siamo a dei livelli comunque ancora di classe, forse arriviamo alla F, ecco, quindi comunque edifici ancora veramente scarsi. Consideriamo che quelli che hanno in assoluto la migliore classe energetica, la A, sono tutti di nuova costruzione, o è possibile anche che un vecchio edificio possa trasformarsi al punto da avere il massimo voto? Allora, un edificio può trasformarsi, un edificio in classe G che si trasforma e diventa in classe A può farlo, bisogna fare delle valutazioni economiche. Allora, io quello che dico è che bisogna riqualificare gli edifici in maniera adeguata e idonea, tenendo conto anche di quello che è l'impatto economico. Noi abbiamo fatto un progetto che è il progetto di Casa Chioto, nel quale l'edificio era in classe G e è arrivato in classe A+, però era un progetto estremo, era proprio un esempio, diciamo. Ogni riqualificazione va fatta tenendo conto delle problematiche specifiche dell'edificio, per cui la diagnosi è la parte fondamentale e vado ad agire sulle varie parti del mio edificio. Non è detto che dobbiamo portare per forza tutti gli edifici alla classe G e alla classe A. Certo. Bisogna costruire in classe A, cioè l'edificio nuovo deve essere in classe A, su questo non ne usciamo. Un edificio, diciamo, da riqualificare arriva in classe C, cioè può arrivare in classe C, è un edificio, diciamo, di tutto rispetto. Tra l'altro, ecco, lei ha introdotto già un termine che ci servirà per la seconda parte della trasmissione, che è quello della diagnosi energetica, perché in provincia di Milano è partita un'iniziativa, una campagna di diagnosi energetica gratuita dei condomini con impianto centralizzato. Per la verità è stata presentata questa campagna che riguarda la provincia di Milano nei giorni scorsi. La campagna complessiva sta andando avanti da diversi anni in molte zone del nord Italia, ne parleremo appunto nella seconda parte del programma, perché magari ci sono anche amministratori di condominio che vogliono fare questi lavori e non sanno dove mettere le mani, perché diciamo ce ne può succedere anche questo, per cui magari diamo loro anche qualche indicazione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre osservazioni. Direi di cominciare subito con i nostri ascoltatori, così vivacizziamo immediatamente il programma. Arnaldo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Senta, io abito in centro Milano in una casa, vecchia casa in muratura che ha più di 100 anni. Io consumo abbastanza poco di riscaldamento perché la casa è termicamente favorita, circondata da altri appartamenti dotati di impianto autonomo, e consumo su 130 metri quadrati 900 metri cubi di metano all'anno, che per me è abbastanza poco. Quindi ho fatto quattro conti così rozzi e ho visto che potrebbe essere una categoria C, una scarsa C, al confine con la D. Quando ho chiesto certificazione energetica, non per vendere ma come mia curiosità, certo, come mia iniziativa, mi sono visto più attratto alla categoria E. Il certificatore mi ha detto che in questi casi la normativa della Regione Lombardia non prevede il beneficio degli appartamenti circostanti, quindi i miei bassi consumi sono dovuti al fatto che tutti gli altri appartamenti sono con riscaldamento acceso, ma il modello matematico teorico della Regione Lombardia non prevede questo beneficio. Certo, è come se fossero, li considera tutti vuoti. Voglio sapere se questa questione è stata una volta per tutte chiusa, cioè gli appartamenti vicini possono contare o no? Perché a questo punto gli appartamenti circondati da altri appartamenti che di fatto beneficiano, perché è un bel beneficio, nella certificazione è stata definitivamente messa a punto, perché ho visto molta confusione in giro. Anche grazie qui. Arnaldo. Sì. Beh, una bella osservazione, ingegnere Erba. Io non sapevo neanche sì. che ci fosse in sospeso una discussione relativa a come calcolare la certificazione energetica di una casa che, come dire, sta in un contesto attorniata da altri appartamenti di cui può più o meno beneficiare. Sì, la metodologia di calcolo nel momento in cui ci sono appartamenti con riscaldamento autonomo, per cui non siamo in un ambito di riscaldamento centralizzato, non vengono considerati, nel senso viene considerata una dispersione verso un altro ambiente come se fosse non riscaldato. Ma questo per anche motivi abbastanza pratici, se effettivamente quell'appartamento non è riscaldato perché magari è sfitto, io devo tener conto comunque delle condizioni peggiori. Non posso tener conto delle condizioni migliori dove ho sempre riscaldamento. O del tutto casuale il fatto che tutti gli altri appartamenti siano occupati, ovvio, certo. Viene considerato come se fosse un ambiente esterno, viene considerato nella metodologia di calcolo come un ambiente non riscaldato, quindi con delle condizioni diverse da quelle esterne. È una condizione ovviamente la peggiore in assoluto, ma quando si fanno dei metodi di calcolo bisogna tener conto anche di queste cose. Come purtroppo fanno anche le grandi banche d'affari che come dire, simulano anche gli scenari finanziari peggiori, Cristiano Dell'Oste. Sì, questo che ci dà l'occasione per aggiungere due precisazioni. La prima è che la certificazione energetica ha una validità di 10 anni in base alla normativa nazionale, quindi le condizioni possono anche cambiare. Quegli appartamenti che oggi sono occupati un domani potrebbero rimanere magari vuoti per tutto l'inverno perché infatti il proprietario si trasferisce, e magari un pensionato che si trasferisce al Arnaldo mare. Arnaldo si trova appunto, ripeto, in una e condizione questo, di casualità di e cui beneficia intanto pagando meno riscaldamento nel corso dell'anno, che già non è poco. Diciamo, la ratio è quella che ci troviamo di fronte a un documento che è pensato per valere molti anni e quindi in qualche modo deve conteggiare così la situazione. E l'altra considerazione che possiamo fare è che la certificazione energetica oggi in Italia è disciplinata con tutto un pacchetto di regole nazionali, che però si applicano solo in quelle regioni che non hanno dettato una disciplina specifica. La Lombardia è una di quelle che si sono portate più avanti e hanno dettato delle proprie regole. Questo complica un pochino le cose, sia per i tecnici, che a volte devono seguire metodologie diverse se operano in regioni diverse, ma anche per i cittadini, perché ci si confronta con regole che non sono sempre perfettamente coincidenti. Certo, quindi magari Arnaldo abitasse in un'altra zona d'Italia, avrebbe potuto anche trovare un certificatore che gli indicava per la sua abitazione una classe energetica tra la C e la D, come lo diceva? Difficile. Secondo me, perché la metodologia di calcolo proprio nella valutazione degli altri appartamenti è abbastanza simile, sia quella nazionale che quella della Lombardia. Benissimo. Diciamo che sulla metodologia di calcolo l'unica è la Lombardia che si distingue in questo momento. Benissimo. Gli allora altri bene o male hanno tutti lo stesso metodo. Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Piccina o no, l'importante è che non disperda calore durante l'inverno, quando naturalmente accendiamo l'impianto di riscaldamento, e che d'estate, quando è molto caldo, ci protegga un po' dalle insolazioni. Detto questo, stamattina parliamo della certificazione energetica delle nostre case, perché ci sono delle novità che riguardano intanto la qualifica dei professionisti ai quali ci rivolgiamo per farci rilasciare questo certificato. E poi vedo che c'è anche un po' di confusione sull'argomento. Non stiamo parlando di una novità assoluta, perché abbiamo citato anche i termini di legge che hanno introdotto questo obbligo nel nostro paese, un obbligo che riguarda solamente le compravendite di case. Cristiano Dell'Oste, ricordiamo un po', perché ci sono alcuni ascoltatori che dicono: ma se io non la faccio vado incontro a delle sanzioni. Adesso non c'è nessun tipo di terrorismo da fare su questo argomento, assolutamente. Allora, è obbligatorio produrre l'ACE, la certificazione appunto energetica, quando la casa si mette in vendita. Esatto, quando diciamo va inserita. Allora, qui sono due leggi diverse, quindi non bisogna mischiarle. A livello nazionale, ogni abitazione trasferita, dice la norma nazionale, deve essere dotata della certificazione energetica, quindi a stretto rigore non la devi allegare al rogito. Però c'è in alcune regioni invece. In alcune regioni, tipo la Lombardia e il Piemonte, va allegato al rogito. Ma il discorso è che comunque il notaio, nel momento in cui stipula il rogito, ha un dovere di informazione, per cui deve dare atto all'interno del dell'atto appunto di compravendita che le parti sono informate dell'obbligo e che l'immobile ne è dotato. Quindi in qualche modo, se manca e il notaio è scrupoloso, non si può stipulare la compravendita. Poi questo non vuol dire che il certificato vada pinzato al rogito, per intenderci, vada allegato in senso fisico, non in tutta Italia, però l'obbligo di dotazione c'è e questo è un primo aspetto. Poi c'è un'altra legge che ci dice invece che gli annunci immobiliari devono indicare non tanto la classe energetica, perché la norma nazionale parla dell'indice di prestazione energetica, che è sostanzialmente un parametro di consumo rapportato alla superficie dell'immobile, che quindi è anche un po' difficile da interpretare, che però questo indice sta all'interno della certificazione, quindi in qualche modo se io voglio fare un bel lavoro, nel momento in cui faccio un annuncio metto poi anche la classe. Certo. Dopodiché questo secondo obbligo, fatta eccezione per la Lombardia, al momento non è ancora sanzionato a livello di multe o di altro tipo di sanzioni che riguardassero eventualmente l'invalidità dei contratti. Mm-hmm. Quindi siamo in una situazione un po' ambigua. Certo è che nel momento in cui decido di mettere in vendita una casa, forse faccio bene a portarmi avanti. Certo. Perché tanto la certificazione la dovrò poi fare dopo. La documentazione. Terzo esatto. Caso in cui la certificazione energetica serve è il caso in cui, ristrutturando un'abitazione, rifaccio tutti gli infissi, chiedo gli incentivi fiscali per la manutenzione, per i lavori di riqualificazione energetica. Allora sì e no. Nel senso che quando faccio lavori che possono beneficiare del 55%, in certi casi devo documentare le prestazioni che ho raggiunto con una certificazione energetica. Nel caso specifico degli infissi è possibile compilare quello che si chiama l'allegato F, che è una documentazione semplificata che posso fare anche io come singolo proprietario se ho la documentazione tecnica del produttore. Quindi in quel caso sì. Specifico lì posso fare a meno del tecnico. Infatti molto spesso ci pensano anche direttamente le aziende che forniscono gli infissi, no? Se non mi ricordo male l'ingegnere Erba può essere, non sì, è necessario chiamare il certificatore per un lavoro di questo tipo. Per che un lavoro è abbastanza... in un'unità immobiliare la sostituzione degli infissi. Sì, esatto, la precisazione modo. Importante sì, che devono essere nelle singole case. Mm-hmm. Esatto. Cioè se rifaccio gli infissi di tutto il condominio, allora in quel caso ho bisogno mm-hmm. del certificato energetico. Benissimo, allora abbiamo scatenato naturalmente molto dibattito fra i nostri ascoltatori, in tantissimi stamattina ci hanno scritto su Facebook sulla questione dell'onere di questa prestazione, cioè chiamo il certificatore, quanto mi costa per poter fare questo lavoro, perché non si tratta solamente di compilare una scheda, si tratta intanto di fare una diagnosi dell'appartamento, capire quanto consuma, poi eventualmente, una volta magari individuati, pensati certi lavori, quanto si va a risparmiare, ma non è neanche detto che si debba fare un lavoro di questo tipo, però insomma un piccolo preventivo bisogna farlo, un controllo preventivo bisogna farlo e poi eventualmente il certificato produrlo in un secondo momento, per cui un professionista serio si comporta in questo modo. Capita però anche che si chiami un certificatore, che questo arriva, dà un'occhiata alla casa, compila due moduli e 300-400 euro e via, insomma dovrebbe essere qualcosa di un po' più professionalmente adeguato. Vorrei sentire Paolo da Milano, perché non ho capito se abbiamo detto delle cose non esatte. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Ci dica. No, niente, io sono certificatore, volevo portare la realtà appunto della regione Lombardia, no, nell'area di Milano. Mm. In effetti le certificazioni adesso non incidono più di tanto sul costo, diciamo, dell'immobile, soprattutto se uno è in fase di compravendita. Primo perché, diciamo, vabbè, in sostanza sta per incassare quello che può essere, diciamo, il prodotto della compravendita. E poi per un altro motivo, Regione Lombardia ha introdotto, no, nuove norme in base alle quali ha accreditato molti certificatori, molti più di quelli che erano accreditati qualche anno fa, a produrre certificati energetici. Questo ha abbassato di molto il costo della certificazione. Certo, il mercato più vivace. A me ha costretto anche molti certificatori, molti tecnici ad operare, diciamo, in condizioni non ottimali, perché comunque l'onere della certificazione dal punto di vista tecnico è abbastanza elevato, cioè le cose da fare sono molte, cioè portano via parecchio tempo. La ringrazio Paolo. Beh, insomma, come per tutte le cose, quando si affaccia sul mercato una necessità di una professionalità nuova, ovviamente ci si buttano un po' tutti, però siamo capaci di distinguere tra l'altro i bravi professionisti o meno in questo settore, Erba, come ci dobbiamo comportare? Perché io non saprei dove sbattere la testa, ovviamente, quindi mi fido del lavoro che mi è stato fatto qualche anno fa, quando ho rifatto gli infissi, quindi mi sono fatta fare tutto il lavoro, però... Ci sono alcune cose fondamentali. Prima tu dicevi viene, fa un primo sopralluogo e basta. A volte non fanno neanche il sopralluogo e questa è la cosa problematica. Allora, ci sono alcune cose fondamentali che sembrano banali da dire, ma non lo sono. Il certificatore deve venire, vedere la tua casa, valutare le misure, valutare come sono fatte le strutture, valutare come sono fatti i serramenti, cioè fare tutta una serie di valutazioni, raccogliere tutta la documentazione possibile per poter fare questo tipo di calcolo, per cui hai documentazione sulle caratteristiche strutturali come documentazione anche sulle caratteristiche di impianto. È vero che in alcuni casi ci sono dei calcoli semplificati per gli edifici esistenti, per la compravendita, per cui ho degli abachi dove posso reperire alcuni dati. Detto questo, è indispensabile comunque conoscere l'edificio, l'unità immobiliare su cui vado a fare una certificazione. Per quanto riguarda i costi, anche sono assolutamente d'accordo con il professionista che ha chiamato, purtroppo questo continuo ribassare i costi ne va anche della qualità della certificazione e della qualità di quello che il certificatore può fare per il suo committente, perché non deve essere visto soltanto come un documento, ma deve essere visto come un documento che mi può aiutare anche a migliorare le prestazioni energetiche del mio edificio. Quindi sono fondamentali. L'altra cosa fondamentale per capire se è un buon certificatore è anche valutare quelle che sono i possibili interventi migliorativi, certo, nel mio edificio. Quindi non è un balzello come viene percepito da molti, come diceva anche Cristiano Dell'Oste all'inizio della trasmissione, che il legislatore una mattina si alza e dice fate questo documento perché così diamo lavoro a un po' di certificatori in Italia. Il tema è capire quanto la nostra abitazione consuma e se magari nel corso dell'anno posso fare anche degli interventi per come dire, abbassare un po' il riscaldamento, tenerlo un po' meno acceso, perché possono sembrare molto banali queste considerazioni, ma alla fine questo è inquinare meno le nostre città, vivere meglio anche nei posti dove abitiamo. No, ma banalmente sul certificato energetico c'è la casella interventi migliorativi che andrebbe compilata. Certo. Allora, un altro grande bel tema che sta venendo fuori dalla nostra trasmissione, anche questo non ci stupisce perché già da Facebook ce l'avevano segnalato, è come dire comprare la consulenza per la certificazione energetica su Groupon, quindi sui siti che appunto propongono queste offerte. Allora, vorrei sentire, no vabbè, c'era Sergio che ci scriveva, parlate dei certificatori che spesso vengono certificati, vendono certificati, quindi c'è proprio la vendita del certificato a 50 euro senza vedere neanche gli immobili. Su Groupon c'è chi vende la certificazione a 25 euro. Un'ascoltatrice ce lo scrive, dice: a me avevano chiesto 300 euro per una certificazione di una casa di 60 metri quadri circa, io ho comprato la certificazione su Groupon e ne ho spese 90. Allora lì diciamo un po' come per tutte le cose, se un certificatore voleva anche farsi conoscere, magari invece di fare una pubblicità di un certo tipo. Marco che mi sbraccia continuamente, che abbiamo adesso? Non lo vedevo. Luigi da Torino, vabbè, sentiamolo e poi commentiamo tutto questo nella seconda, nell'ultima parte del programma. Luigi, buongiorno, non vedevo buongiorno, la sua mail, salve, la sì, sua telefonata. Mi stavo ricollegando a quello, avevo telefonato proprio per questo, io sono un giornalista, lavoro qui a Torino e mi è capitato più volte di incappare su questi siti tipo Groupon, offertissima, dove si offre effettivamente a prezzi irrisori una certificazione, quando io ultimamente l'ho dovuta fare da un professionista ho speso 180 euro, quindi mi chiedevo che professionalità potevano dare e se era deontologicamente corretto fare anche delle pubblicità del genere. Eh certo, ma Luigi, appunto, ripeto, io la mia teoria è questa, che se uno vuole farsi conoscere può fare pubblicità in un certo modo, così come fare delle offerte promozionali su Groupon, su siti di questo tipo. Il tema è poi capire, appunto, ci fa un lavoro adeguato o no. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Eccoci qua. Allora, quanto deve costarci il certificatore energetico, chiamiamolo, non si chiama così tra l'altro, il nome è veramente brutto, comunque in genere è un ingegnere, un geometra, un professionista chiamato a compilare appunto questa, a fare prima tutto un check-up dell'abitazione, naturalmente, poi a fare tutta una compilazione di documenti molto dettagliata. Andiamo un range di costi. Valeria Erba, presidente di ANIT. Ma un range di costi lo do io, ma in realtà è su un documento ufficiale, perché sul conto energia termico che è uscito di recente, che è un decreto, sono stati riportati dei dati sui costi unitari massimi, diciamo, che loro poi dopo incentivano per una certificazione energetica, e quindi questo ci dà già un'idea di quello che può essere un costo, che sono circa €1,50 al metro quadro per superficie utile dell'immobile fino a 1600 metri quadri. Per gli edifici residenziali oltre 1600 metri quadri, diciamo che il costo unitario massimo è di €1 al metro quadro. Quindi un'indicazione: 100 metri quadri sono circa €150, tanto per dirci un'indicazione di massima. Detto questo, io sottolineo solo una cosa: dipende anche però la certificazione, il motivo della certificazione, perché nel momento in cui faccio una certificazione per un atto di compravendita su un edificio che ha scarse qualità energetiche, io potrò fare una certificazione semplificata col metodo semplificato, dovrò farla con tutte le regole, andando a fare sopralluogo e valutando tutti i documenti, però magari è un po' più semplice e più veloce. Nel momento in cui devo andare a fare una certificazione per una riqualificazione energetica o per dare anche valore all'unità del mio immobile, che magari è già in classe B o in classe A, allora in quel caso ovviamente le indagini dovranno essere molto più approfondite, certo, e per cui i costi ovviamente saranno sicuramente più alti. Un po'. Allora, se ci rivolgiamo ad un professionista sbagliato e ci compila una certificazione errata, non dico volontariamente, ma magari, ecco, professionalmente parlando, compilata non con criteri adeguati, Cristiano Dell'Oste, ci sono anche delle sanzioni a cui si va incontro qualora, vabbè, a parte magari io non lo so, devo vendere la casa, ho una certificazione non idonea, se lo scopre qualcuno che cosa succede? Ma diciamo che per esempio nel caso del Piemonte, che era quello del nostro ascoltatore, la regione ha previsto un pacchetto di sanzioni abbastanza pesanti per i certificatori. Che ricadono sul proprietario? No, no, che ricadono sul certificatore che deliberatamente commette errori, magari per troppa fretta o perché non approfondisce o perché non visiona l'immobile. Insomma, poi sul mercato ci sono professionisti seri e professionisti meno seri. Si va da 150 a 1.500 euro di multa se il certificatore non rispetta i criteri regionali nel fare il calcolo, oppure si fa fino al doppio del costo della certificazione se è stata attribuita una classe non veritiera. Ma c'è anche un'altra cosa, che se si scopre che ci sono 10 certificazioni non veritiere fatte in un anno, si viene cancellati dall'albo regionale e quindi si smette di fare quel lavoro. Beh, se si arrivava a 5 era lo stesso, insomma 10 forse siano state anche un po' troppo leggeri. Comunque. Ma questo vediamo, diciamo che in ogni caso le sanzioni ci sono, semmai il discorso è che i controlli stanno andando molto a rilento nelle diverse regioni, nel senso che sono programmi complessi da mettere in atto e poi si va a campione. Questo, se vogliamo, è il limite, però le sanzioni esistono. Saluto e ringrazio Fabrizio Ferrari, responsabile Domotecnica Divisione Condomini. Buongiorno. Ci sente, buongiorno, dottor Ferrari? Buongiorno. Eccoci qua, perché lo abbiamo interpellato? Perché è partita, sta partendo, la campagna di diagnosi energetica gratuita nei condomini con impianto centralizzato nella provincia di Milano, a Milano, ma per la verità, dottor Ferrari, questa campagna è partita già da molto più tempo in molte zone del nord Italia. Che cosa state facendo e perché è così importante questo lavoro di diagnosi energetica dei nostri edifici? Sì, infatti l'attività che fa Domotecnica Divisione Condomini ormai è attiva in 37 province del nord Italia, nelle 7 regioni, dall'Emilia Romagna in su, escluso la Liguria. Questa attività di diagnosi energetica è, diciamo, propedeutica ed è fondamentale, prima ancora della certificazione energetica di cui sentivo parlavate prima con i vostri ospiti. Noi cerchiamo di introdurre questo concetto in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le istituzioni che patrocinano questa iniziativa ormai da 4 anni, di far passare un concetto importantissimo, parliamo dei condomini, come ha detto lei, di un impianto centralizzato, che prima di fare la certificazione, che di fatto è un documento che attesta, diciamo così, le condizioni standard dell'immobile, noi quello che riteniamo è che prima ancora di fare la certificazione energetica, così come prevede la normativa, ci sia un altro step che si chiama diagnosi energetica, cioè io cerco con la diagnosi di informare l'utente, prima ancora di fargli l'attestato di certificazione, di qual è la situazione, di qual è l'effettiva situazione dello stato d'uso dal punto di vista energetico ovviamente dell'immobile. E prima di fare l'attestato, che ha comunque un costo, ha un valore e che targa di fatto l'edificio, capire in che situazione sono, in che classe attualmente sarei e cosa posso fare per migliorare questa classe e quindi dare più valore all'immobile, oltre che per capire cosa si può fare per risparmiare energia. Certo, tra l'altro voi avete scoperto, no, stavo leggendo anche nelle vostre note che ben l'80% degli edifici della provincia di Milano presenta gravi situazioni di inefficienza energetica e le famiglie sprecano a causa di questo circa la metà dell'energia acquistata per il riscaldamento, per cui insomma bastano queste cifre a far comprendere l'importanza della questione della quale parliamo, dottor Ferrari. Beh sì, diciamo che noi più che averlo scoperto l'abbiamo messo ancora più in evidenza se fosse stato necessario, nel senso che i rapporti di Enea e di WWF ormai insomma sono tantissimi negli anni scorsi che mettono in evidenza appunto questa situazione. I condomini vecchi hanno una situazione energetica veramente carente, per il fatto stesso che insomma non è casa di nessuno, tutto ciò che sta fuori dall'appartamento non viene mai curato e fino a che l'energia costava poco andava bene a tutti, adesso con quello che costa l'energia non è più sostenibile questa situazione. Infatti, allora c'è tempo fino al 20 aprile, lo ricordiamo a chi ci ascolta, per iscriversi all'analisi gratuita nel territorio milanese e per richiederla bisogna scrivere a questo indirizzo di posta risparmioincondominio@domotecnica.it. Dottor Ferrari, la ringrazio, devo andare velocemente verso la chiusura e ancora anch'io voi. Buon lavoro naturalmente. Volevo sentire Maria Franca da Torino perché ha fatto eseguire la certificazione però ha scoperto che appunto è mendace, sbagliata. Maria Franca non riesce però ad intervenire per fare una correzione. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? E dunque, sì, è un alloggio affittato, per cui mi chiedo anche se fosse obbligatoria poi la certificazione. Sì. Comunque, è dato in affitto il 2010, mi pare, quando era entrata in funzione questa cosa, mi è stato richiesto dall'agenzia immobiliare che si è occupata di tutto quanto, mi è stato richiesto di fare questa certificazione, mi è costato sui 400 euro e la casa è stata classificata in classe G, una casa costruita nel 1985, anche la dichiarazione comune e tutto quanto, e sul certificato compare la data anno di costruzione 1970, per cui le cose cambiano molto. Oltretutto la casa era stata costruita con requisiti molto validi già all'epoca, perché con doppi vetri, a riscaldamento autonomo, però i doppi vetri, insomma, si è badato ai serramenti, a varie cose. Insomma, lei dice che la certificazione che le è stata rilasciata non è adeguata. Maria Franca, ma per curiosità, io mi rendo conto che lei non voglia buttarvi altri soldi, ma magari far venire un altro tecnico facendo una richiesta ad una lista di professionisti a cui ci si possa rivolgere, non le viene la curiosità di rifare tutto? D'accordo, però ho chiesto a questo certificatore tramite l'agenzia, perché io non l'ho conosciuto il certificatore, di correggere, di farne una nuova, di rimediare a questo sbaglio. Assolutamente non ricevo risposte. E non so esattamente a che rivolgermi. Allora guardi, siccome nel Piemonte invece sono molto rigidi e molto rigorosi, Cristiano, che cosa possiamo fargli fare, visto che là chi fa le cose sbagliate, abbiamo già detto prima, paga anche delle sanzioni, se soprattutto le fa più spesso? Ma allora diciamo intanto una cosa, magari su questo anche Valeria Erba ci può dare il suo parere. Sì. Non è detto che la certificazione sia sbagliata solo perché è sbagliato l'anno di costruzione, perché lo vedevamo prima, anche negli anni 80 si costruiva comunque ancora con criteri non così efficienti, un po' elastici, se diciamo. Se poi quel palazzo avesse magari una caldaia non delle più moderne, adesso non conosciamo i casi specifici, però bisogna vedere com'è. Detto questo, può sicuramente tentare di ricontattare il certificatore. Se non riesce a ricontattarlo, rivolgersi agli uffici regionali di cui si possono trovare facilmente i recapiti via internet e segnalare quello che le è successo, in modo tale, e magari minacciare o comunque far presente al certificatore che lei segnalerà la cosa alla regione se lui non si fa vivo, e magari si farà vivo e cercherà Ingegnere di Erba, da parte sua un ultimo suggerimento? Sì, no, sono d'accordo sul fatto che potrebbe essere lo stesso una classe G anche se hai doppi vetri. Sì, l'unica cosa, se non riesci a rintracciare il certificatore, segnalarlo all'ufficio regionale. Tra l'altro dei certificatori in Piemonte. Infatti, Cristiano, no, per l'affitto. Fare una precisazione, esatto, perché questo caso ci consente di ricordare che mentre a livello nazionale è obbligatorio solo per le compravendite, in alcune regioni, tra cui il Piemonte e la Lombardia, è obbligatorio e anche sanzionato dotare di certificato energetico anche gli alloggi che si vanno ad affittare, non soltanto quelli che si vogliono vendere. Benissimo, e per tutto quello che non abbiamo detto questa mattina vi suggerisco la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, la certificazione energetica, della certificazione acustica. Ingegnere Erba, parleremo in un'apposita trasmissione che le preparerò al più presto, promesso. Grazie molte a Valeria Erba, Cristiano Dell'Oste, noi torniamo domani, a tutti buona giornata.